Bologna e dintorni. Come va il mondo? Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e per le prossime settimane vi terrò compagnia tutti i sabato alle 13.30 per un approfondimento sulle principali notizie dal mondo. Il nome della trasmissione è un omaggio al fotografo siciliano Ferdinando Scianna, che nel 1978 organizzò a Milano una mostra dal titolo Sicilia e dintorni, dove vennero messe in mostra anche fotografie scattate in Giappone. Questo per dire quanto i dintorni di Sicilia e Bologna siano ampiamente intesi. Infine, sono felice di tornare ad attraversare le sedi di Radio Città Fucico dopo 8 anni dall'ultima collaborazione. Noi ci sentiamo tra pochissimo dopo lo stacco musicale. Bentornate e bentornati. L'argomento, il tema di oggi è quello del conflitto israelo-palestinese, o meglio delle campagne militari israeliane in Palestina, che ormai almeno per l'ultimo episodio, quello più recente, stanno per compiere quasi un anno. Guarderemo a questo tema da una prospettiva un po' particolare, ovvero da quella mediterranea e dal prendendo in considerazione il coinvolgimento anche dei porti italiani. Per farlo abbiamo come ospite Gabriele, attivista della Federazione Anarchica Siciliana e referente di No Harbors for Genocide per la Sicilia. Buongiorno Gabriele. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti. Allora, io partirei subito con una domanda un po' generica che riguarda il Mediterraneo. I paesi europei e l'Italia non sono ufficialmente coinvolti nella campagna militare di Israele in Palestina, eppure qualcosa sembra che stia accadendo nelle acque e nei porti del Mediterraneo. Purtroppo sì, è esattamente così. Già in realtà da tempo sappiamo che c'è molto movimento sui porti italiani, movimento preoccupante relativo all'attacco sulla popolazione palestinese a Gaza. Quello che sappiamo tramite diversi reporti, in particolare uno che voglio menzionare, scritto dall'organizzazione SOMO, e il report si chiama Fueling the Flames in Gaza, è molto dettagliato e spiega il movimento di carburante militare che c'è ormai da quasi più di 10 anni, dal 2014 ad oggi, dall'America al porto di Ashkelon in Israele. In particolare sappiamo tramite questo rapporto che ci sono diverse navi petroliere, due in particolare che vanno sotto il nome di Overseas Santorini e Overseas Suncoast, che tramite dei contratti specifici con la compagnia Valero portano una quantità importante di carburante militare che va sotto il nome di JP8 da Corpus Christi in Texas fino a Ashkelon, passando per il Mediterraneo. Gran parte di questo petrolio, che spesso è olio crudo, chiamiamolo così, viene poi lavorato nei vari porti del Mediterraneo. Si ferma, sappiamo, a Gibilterra, si ferma molto spesso purtroppo in Italia, nei porti di Livorno, Taranto, Milazzo, a volte si ferma anche in zone come Trapani, Augusta, per fare anche altri business che possono essere legati a manutenzione di queste petroliere. In questo passaggio poi arriva a rifornire lo Stato apartheid terrorista di Israele, che utilizza questo carburante in particolare per i loro jet F-16 e 35. Non pensa che un carico di una petroliera può rifornire fino a 12.000 voli. Sappiamo in particolare che questi sono degli aerei molto rilevanti per lo Stato apartheid di Israele, perché proprio su Gaza gran parte dei bombardamenti sono avvenuti anche con questi aerei. Stiamo parlando di più di 10.000 bombardamenti negli ultimi 7-8 mesi. Quindi per noi questo aspetto è particolarmente rilevante. Ecco, infatti l'utilizzo peraltro dei porti europei e italiani per il transito di carburante ad uso militare, ovviamente destinato a Israele in questo caso, ha scarsissimo risalto nel dibattito pubblico. Tra l'altro in questo contesto risulta che l'Italia abbia non pochi vincoli formali che la impegnano a non sostenere campagne belliche e militari sul piano internazionale. Dal tuo punto di vista, ti chiederei qual è la tua lettura di questi processi? Assolutamente sì, ci sono tanti motivi, anzitutto morali, per cui l'Italia non si dovrebbe mai impegnare in una situazione bellica di questo tipo, in una situazione genocida di cui lo Stato terrorista di Israele è colpevole. L'Italia, anzitutto, sotto l'articolo 11, sappiamo che ripudia la guerra. Cosa che fa ridere, perché l'Italia in realtà, per esempio, è proprietaria al 30% di una delle industrie belliche più grosse al mondo, che è la Leonardo. La Leonardo proprio poi si occupa anche di formare piloti israeliani sul territorio italiano e dentro le basi della Leonardo, che sono miste con basi dell'aeronautica militare. La legge 185/90 italiana parla proprio del controllo, importazione, esportazione e transito di materiale militare, e il petrolio JP8 non è altro che materiale militare. Secondo già questi due articoli nostri, dovremmo assolutamente avere un'enorme attenzione su quello che circola dentro il nostro, dentro, diciamo, chiamiamolo così, territorio italiano e sui nostri porti. Insieme a questo, poi abbiamo anche la Convenzione sul genocidio del 24 maggio di quest'anno, della Corte internazionale, che assolutamente impedisce il supporto in qualunque forma, in qualunque termini, del genocidio che si sta prendendo forma sempre di più a Gaza e anche ormai sappiamo di quello che sta succedendo pure sui territori occupati della Cisgiordania. Quindi su tantissime ragioni l'Italia non si dovrebbe assolutamente impegnare in questo supporto, sia mediatico, sia, come stiamo dicendo, anche di tipo fondamentalmente bellico di Israele. L'Italia, purtroppo, cioè quello che vediamo è un vile silenzio dalla parte dei media. E poi è in linea, purtroppo, anche non solo l'Italia, ma tutto quello che succede in Europa, perché anche molti stati europei danno rifornimento diretto a Israele. Siamo già nel territorio di quello che è fondamentalmente quello che è stato negli ultimi 500 anni la storia dell'Europa, una storia chiaramente razzista, dell'idea del cristiano, dell'uomo bianco che è andato in America a fare un genocidio lì, che è andata in Africa, che è andata in milioni di altri posti in giro del mondo a fare genocidio sulla base di una sua idea di essere superiore agli altri, che è un po' quello che sta muovendo la politica israeliana, di sentirsi superiore a un'altra popolazione con cui storicamente ha sempre condiviso il territorio. Peraltro, durante diciamo, questo tuo percorso argomentativo, citavi Leonardo, io vorrei provare a esplorare insieme a te un po' quello che sembra essere un panorama, uno scenario piuttosto critico che riguarda le collaborazioni tra enti e organizzazioni italiane con Israele, e ovviamente mi riferisco a collaborazioni per fini militari. Infatti la campagna bellica israeliana è iniziata quasi un anno fa. Una delle cose che ha, diciamo, messo in evidenza in maniera più drammatica sono le esperienze che coinvolgono, appunto, enti e organizzazioni italiane che collaborano più o meno direttamente allo sviluppo dell'industria bellica israeliana. Rispetto a questo esiste un dibattito da diversi mesi, un movimento di protesta e boicottaggio a tal proposito è nato anche e si è sviluppato anche all'Università di Bologna. Quali sono gli attori coinvolti in queste collaborazioni sulla base della tua conoscenza e quanto diffuse sono queste prassi? Per fortuna stiamo vedendo che comunque la coscienza pubblica, nonostante la media mainstream, stiano cercando di mascherare quanto più possibile quello che stia succedendo. Le università, i giovani delle università hanno preso molto a cuore la situazione che sta succedendo a Gaza. E abbiamo infatti molte università dal nord al sud dell'Italia, Bologna, Palermo, che si sono pesantemente esposte per poter cercare di limitare dove è possibile i danni e comunque cercare di ridurre dove è possibile questa collaborazione tra università, azienda bellica come la Leonardo e il supporto su Israele. Palermo, per esempio, l'Università di Palermo sono riusciti a far cancellare alcuni contratti, borse di studio collegati allo stato apartheid di Israele. Ci sono molte altre realtà che stanno nascendo sempre di più, da quelle grandi nazionali a quelle piccole locali. Grandi abbiamo per esempio giovani palestinesi, abbiamo adesso in Italia dallo scorso anno Palestina Libera, di cui faccio anche parte, che è il branch italiano di Palestine Action, che è un gruppo di attivisti e attivisti che ha come modalità di azione azioni dirette non violente proprio solo verso la Leonardo e associate. Diciamo, l'opinione pubblica per fortuna si sta svegliando, sta vedendo qual è la realtà, nonostante i mainstream media stiano facendo tutto il loro subdolo lavoro amorale nel cercare di nascondere qual è la verità. Ecco, traggo di nuovo spunto dalle tue parole per ricordare che, diciamo, la tua è una testimonianza importante. Tu sei un attivista che è stato coinvolto e che ha, diciamo, vissuto e visto in prima persona i processi di cui sta parlando, transito di petroliere e di carburante, per uso militare nel Mediterraneo. Io a questo proposito ti chiederei un po' della tua esperienza. Che cosa ci puoi dire rispetto alla nascita di realtà di critica e resistenza contro pratiche di sostegno alla guerra? Come dicevamo, l'utilizzo dei porti per il transito di carburante a uso militare, su cui, come dicevamo anche questo poc'anzi, esiste una scarsissima, adesso fortunatamente in aumento, ma ancora troppo debole consapevolezza pubblica, soprattutto a causa, non serve dirlo, della reticenza delle forze politiche, delle istituzioni e ovviamente anche dei mezzi di informazione. Gabriele, che cosa ci racconta la tua esperienza di queste realtà? Dunque, io, come dicevo all'inizio, faccio parte anche di questa campagna internazionale che in italiano sarebbe Nessun porto per il genocidio, No Harbor for Genocide, e che raccoglie quasi 200 collettivi dall'America fino a Cipro, che hanno mobilitato un'attenzione, una campagna internazionale che va a guardare nello specifico il movimento di queste due navi petroliere. Ogni realtà che ti ho menzionato, quindi dal Texas, passando per Gibilterra all'Italia, fa resistenza nel modo che ritiene migliore. Quindi dal mandare delle lettere alle realtà politiche, a tutto quello che può rappresentare le autorità portuali, per esempio, per renderle consapevoli e mostrare il totale dissenso dell'arrivo di queste navi sui loro territori, fino a fare delle azioni non violente come sono state fatte per esempio a Cipro. A Gibilterra sono riusciti veramente a fine luglio a non far sbarcare, non far arrivare sulle loro coste questa nave. A Livorno ad agosto abbiamo avuto gli autonomi portuali che sono riusciti a alzare molto molto polvere sulla questione a livello locale, sui loro media. Qui in Sicilia abbiamo attivato per esempio da poco un gruppo a Milazzo che sta già incominciando a mandare diverse PEC ai vari politici, a autorità portuali, eccetera, come primo passo per poi cominciare a fare volantinaggio anche davanti alla raffineria di Milazzo, e andremo avanti fino a rendere consapevoli anche le persone che vivono a Milazzo, che vivono a Augusta, dove queste navi si avvicinano. Ma questa non è l'unica realtà che è molto bella, è una realtà internazionale molto potente, ma noi in Italia, per esempio, abbiamo un'ulteriore realtà che è Ferrovieri contro la guerra. Loro sono attivati pesantemente contro i movimenti di armi dentro il territorio italiano, per esempio. Benissimo Gabriele, io ti ringrazio veramente moltissimo per la testimonianza che hai voluto condividere con noi e spero ci risentiremo presto con notizie migliori, diciamo. Vediamo, continuiamo a resistere. Bene, grazie ancora Gabriele, io ringrazio anche Irene Fugazzotto che ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questa puntata. Noi ci vediamo sabato prossimo, sempre alle 13:30, sempre sui 103.1 di Radio Città Fucico.